Gossip, voci, gente che parla. Volete sapere quello che penso io? MC1, sento gente che parla di me ma non sa niente. Gente che nella merda vive allegramente. Voci su voci feroci che sono dolci ma che appena possono schiacciare umani come noci. Un mondo fatto e disfatto dagli sparlacci, chiacchiere coltivate a modo ortaggi, che con amore, col sudore, con ardore ogni suo agricoltore guarda il prodotto con timore, con timore. Una volta concimato dai suoi frutti, per la maggiore questi frutti sono brutti e distrutti. Ma poco importa perché questo è l'obiettivo, fare di niente il distruttivo. Leggo pagine su pagine di giornali che vendono la vita dei personaggi che si spengono, e come per magia sta gente andata via, ritorna su qualche talk show ed è subito anemia. Gli ascolti crescono, gli incassi entrano, e soddisfatti dopo libri e gadget vendono. E tutto questo è parte di un'aggregazione che sa che stai davanti alla TV come un coglione. Ogni gossip è come un altro, fonte anche l'essere più scaltro. Non lasciarti illudere, il gossip è fatto per distruggere. Ogni gossip è come un altro, fotte anche l'essere più scaltro. Non lasciarti illudere, il gossip è fatto per distruggere. Se pensavi di cambiarmi eppure eccomi qua, lo stesso di prima, lo stesso nella stessa città. Le stesse facce, lo stesso odio e lo stesso amore. Le stesse persone che sparlano senza pudore, circondato da lettere e frasi bieche. Soggetti vegetali, te sono una rete. Le vostre vite sono vuote, voi giocate con le storie degli altri, ci passate le giornate. Riempite spazi, avete sete di notizie che rubate e sequestrate. Ormai ci stiamo tutti dentro fino al collo, pieni di merda senza aver pagato il bollo. Storie che girano senza fermarsi, persone pronte a prepararsi, pazienti di sapere, storie sentimentali, particolari, sessuali e vari intrecci banali. Mille storie VIP che trovi sui giornali. I cazzi miei ormai sono eventi sociali. Gente di merda, ce l'avete una vita? Sono convinto del contrario, è finita. Cicale che non muoiono d'inverno, è inferno. Voci che ruotano, io sono il vostro perno. Eterno sparlare, ma quanto pare nemmeno col bazooka riuscireste a tacere. Vuoi sapere i cazzi miei? Certo, sicuro, prendi la prima a destra e vattene a fanculo. Ogni gossip è come un altro, fonte anche l'essere più scaltro. Non lasciarti illudere, il gossip è fatto per distruggere. Ogni gossip è come un altro, fonte anche l'essere più scaltro. Non lasciarti illudere, il gossip è fatto per distruggere. Se fammi il piacere, altro che giuri, spiattelliamo la realtà sui tuoi muri. E non ti curi di noi, per fai male, doppia puzzetta cruciale, sale.